Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Migranti verso la creazione di nuovi hotspot. Domani inizia il vertice di Tallinn, attesa per l'intervento di Minniti in Parlamento. Monte dei Paschi, ecco il piano, 5.500 esuberi in 5 anni, taglio di 600 filiali, obiettivo un utile a 1,2 miliardi nel 2021. Nel 2016 un nuovo minimo per le morti sul lavoro, sono state 618, di cui la metà fuori dall'azienda, la maggior parte over 50. Continua a salire la tensione sulla Corea del Nord, lancio di missili ed esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Sud Corea. Messi firma col Barcellona fino al 2021, clausola rescissoria a 300 milioni. In Italia intanto continua a tenere banco il caso Donnarumma. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la pagina Facebook di Radio 24 dalla quale andiamo in diretta video, e se volete potete commentare anche là, così come sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. In apertura dunque torniamo ad occuparci di immigrazione, il fronte è ancora duplice, italiano ed europeo, vediamo di fare un punto con Sergio Nava. Sergio, vai. Sì, buongiorno. La crisi migratoria è la sfida più urgente da affrontare, una sfida che non vediamo da decenni. Abbiamo il dovere di assistere in Europa i migranti e aiutarli in questa tragedia, ad affermarlo oggi il premier estone Jüri Ratas, presentando al Parlamento europeo le priorità della sua presidenza di turno. Nessuno Stato membro, dice Ratas, può risolvere la crisi da solo. Domani, al vertice informale di Tallinn dei ministri degli interni, il tema migranti sarà, lo sappiamo, centrale. Sul tavolo il piano presentato ieri dalla Commissione europea per alleggerire il flusso verso l'Italia. Intanto ci sono nuovi dati sull'immigrazione presentati questa mattina a Bruxelles dall'Agenzia Europea per l'Asilo EASO. L'Italia ha ricevuto quasi 123.000 domande d'asilo nel 2016, più 47%, il 10% sul totale europeo. La maggior parte dei richiedenti asilo in Italia sono nigeriani. Il maggior numero di richieste di asilo ha riguardato la Germania, oltre 700.000. Nel complesso le domande di asilo in Europa l'anno scorso sono state quasi 1,3 milioni e anche EASO ha confermato la crescita di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, che ha registrato nel 2016 un numero record, soprattutto dall'Africa subsahariana occidentale e dal Corno d'Africa, oltre 181.000 migranti, più 18%. Lo dicevi tu poc'anzi, oggi il ministro dell'interno Minniti nel pomeriggio riferirà in Parlamento sulla crisi e annuncerà l'apertura di 6 nuovi hotspot. Per chiudere ascoltate questo audio. È la sparatoria tra scafisti e guardia coste di Tripoli, svoltasi in acque libiche. Nel filmato si sentono e si vedono le esplosioni dei fucili dei trafficanti dalla loro imbarcazione diretti contro la motovedetta delle autorità costiere nordafricane, filmato che è stato postato in queste ore da Repubblica TV. Per il momento è tutto. E grazie dunque a Sergio Nava per questo aggiornamento. A proposito di guardia costiera libica, ne parla anche il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, intervistato da Valentina Furlanetto, dice: miope pensare che la questione delle migrazioni si possa affrontare appunto puntando il dito contro le ONG e finanziando la guardia costiera di una nazione che non esiste. Sentiamo. In Libia in questo momento non c'è possibilità di accesso umanitario. Fra le richieste del ministro Minniti anche l'apertura in Libia di centri per migranti con standard umanitari accettabili. È realizzabile questo? In questo momento assolutamente no. Sono buone intenzioni, ma mi sembra che siamo molto lontani da questo. Stiamo dando dei mezzi navali alla Guardia Costiera Libica. Ma la Guardia Costiera Libica è affidabile? Non mi sembra che vi sia nulla di affidabile in quel paese, cioè si continua a parlare di un paese che in questo momento non esiste. Guardate, se noi continuiamo. E quindi dare dei finanziamenti alla Libia rischiano di cadere nel vuoto? Assolutamente sì, in questo momento, da un lato. Dall'altro, noi continuiamo a pensare che il problema sia la Libia. Però le dico una cosa, noi abbiamo avuto un aumento di circa il 20% di persone rispetto al 2016. Noi dovevamo avere comunque una relocation plan che prevedeva circa 30.000 persone ricollocate in altri paesi europei. Se ci fosse stata veramente una solidarietà europea, probabilmente non avremmo avuto l'affanno che stiamo vivendo in queste ore. E più avanti torneremo a parlare di immigrazione, lo faremo andando al confine col Brennero e al confine, quindi al confine con l'Austria e al confine con la Francia a Ventimiglia. Intanto occupiamoci di immigrati, sì, di immigrati occupati con il caporalato. Una maxi operazione, una serie di operazioni nel sud Italia hanno portato a molti fermi, pochi arresti, però a scoperchiare un'altra volta il problema. Erano costretti a lavorare anche 18 ore al giorno per 20 euro. I 230 braccianti, per lo più nigeriani e rumeni, delle 26 aziende sottoposte a controlli tra Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Li hanno trovati mentre raccoglievano pomodori e altri ortaggi nelle serre e nei campi sotto il sole, alcuni in situazioni di disidratazione. Alfredo Fabroccini, al comando della seconda divisione del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Parliamo di oltre 200 persone che lavoravano in condizioni che potremmo definire ben oltre quello che è previsto, diciamo, dalla dignità umana. Tre gli arresti, un imprenditore agricolo e due caporali. Sono sì tre arrestati, ma soprattutto sono le decine di migliaia di euro di multe che sono state inflitte a quasi 30 aziende, delle quali tutte avevano un numero considerevole di lavoratori in nero. Talvolta i caporali sottraevano ai 20 euro giornalieri anche i soldi dell'alloggio e del vitto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento, veniamo al piano per il Monte dei Paschi. E soprattutto un piano di ristrutturazione ed è orientato a riportare la banca in salute e in utile e doveva essere prima approvato formalmente dalla Commissione europea, come è successo. Questa la premessa dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, alla presentazione del piano 2017-2021 agli analisti e dopo il salvataggio arrivano i tagli. 5.500 esuberi che porteranno i lavoratori MPS da 25.000 a 20.000 nel 2021, per circa 4.800 l'attivazione del fondo di solidarietà e la chiusura del 30% delle filiali, circa 600. In 4 anni, cioè al 2021, l'utile netto tornerà, secondo le previsioni, a 1,2 miliardi di euro. Le sofferenze lorde da dismettere ammontano a 28,6 miliardi lordi e il programma prevede anche la cessione al fondo Atlante 2 delle tranche Junior e Mezzanine. Entro la fine di luglio il governo approverà il decreto attuativo per finalizzare il piano, annuncia l'amministratore delegato Morelli, che aggiunge: stiamo negoziando con la Consob le procedure e le tempistiche per il ritorno in borsa. Monte dei Paschi MPS è tornata al suo posto, commenta alla fine il numero uno di MPS. È stato come essere in un pronto soccorso con un'emergenza ogni 5 minuti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sulle questioni bancarie ci sono da registrare le dichiarazioni del ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Il governo dice sta togliendo impedimenti alla crescita come i problemi del sistema bancario, ci siamo lasciati alle spalle il peggio, si sta vedendo non solo su quello che è oggetto delle analisi dei giornali ma anche nel comportamento quotidiano delle banche, si sta voltando pagina, sostiene il ministro dell'economia. Siamo ai dati dell'INAIL diffusi oggi, già qualcosa vi accennavamo nei titoli, continuano a calare gli incidenti sul lavoro. Teresa Trillò, buongiorno. Buongiorno a voi Simone. Sì, ci arrivano notizie discrete dal mondo del lavoro, appunto anche lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, sono diminuiti gli infortuni mortali sul lavoro ai minimi da 9 anni, mentre aumentano le denunce di malattia, salite a circa 60.000. Nel 2016, ha spiegato il presidente De Felice, le morti accertate sul lavoro sono scese a 618 e si registra così un nuovo minimo e un calo del 12,7% rispetto all'anno prima. La metà circa di questi infortuni riguarda lavoratori over 50, mentre il maggior numero di incidenti mortali si registra nel nord-est con 177 decessi. Tanti infine, quasi 21.000 le aziende controllate, circa l'87% è risultato irregolare, sono stati scovati quasi 5.000 lavoratori in nero. E da Roma è tutto. E grazie a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Noi passiamo all'estero e passiamo a parlare della Corea. La tensione resta molto alta. Grandi manovre militari congiunte questa mattina in Corea del Sud tra le forze armate sudcoreane e americane, con tanto di esercitazioni missilistiche. È un vero e proprio monito alla Corea del Nord, che ieri ha testato con successo quello che è stato riconosciuto come il suo primo missile balistico intercontinentale. dai vertici militari americani e sudcoreani sono arrivate parole durissime, che non escludono la possibilità di guerra sul confine più militarizzato del mondo, sul quale vige un armistizio dal 1953 senza che mai si sia arrivati a un trattato di pace. La linea tra armistizio e guerra è sottile, basata su una scelta di autocontrollo, ha dichiarato ad esempio il comandante delle forze americane in Corea, generale Vincent Brooks. I media del regime nordcoreano hanno dichiarato oggi che il missile intercontinentale può già portare testate nucleari, un'affermazione alla quale molti esperti non danno credito, ma certo ormai si tratta solo di una questione di tempo. La tensione regionale torna dunque altissima mentre si aprono scenari nuovi. A Tokyo, ad esempio, ci si interroga su un futuro in cui, in caso di crisi nucleare, forse non sarà scontato al 100% che gli Stati Uniti vogliano rischiare Los Angeles per proteggere Tokyo. Oggi la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. Sulla vicenda del piccolo Charlie invece si sono confrontati questa mattina il ministro degli esteri italiano Angelino Alfano e quello britannico Johnson. Sentiamo. Impossibile accogliere la richiesta dell'Italia di ricoverare il piccolo Charlie all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Lo ha ribadito in un colloquio telefonico il ministro britannico Boris Johnson al titolare della Farnesina, Angelino Alfano. Pur esprimendo gratitudine ed apprezzamento per l'offerta italiana, Johnson ha spiegato che ragioni legali impediscono alla Gran Bretagna di trasferire il piccolo a Roma. Era stata la stessa mamma di Charlie, il bimbo di 10 mesi per il quale i medici inglesi sono pronti a staccare la spina contro la volontà dei genitori, ad accettare l'offerta dell'ospedale Bambin Gesù. Stessa offerta raggiunta anche da un ospedale americano pronto a sottoporre gratuitamente ad una terapia sperimentale il piccolo ricoverato a Londra con una sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, una malattia degenerativa che causa un progressivo deperimento muscolare ed è giudicata incurabile. Sulla vicenda, oltre al presidente americano Trump e al Papa, è sceso in campo anche il nostro ministro degli esteri Alfano. Ma ora, dopo il rifiuto del ministro Johnson per i genitori di Charlie, non resta che sperare in un intervento della Premier Theresa May per sbloccare la situazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica che vede uno scontro sul codice antimafia. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, una diatriba accesa, quella sorta nell'aula del Senato durante la discussione sul disegno di legge del codice antimafia, tanto che il presidente del Senato Pietro Grasso sospende per la seconda volta la seduta che riprenderà alle 16.30. Ma facciamo il punto: respinta per alzata di mano la richiesta di sospensione presentata dal senatore Gaetano Quagliariello di Federazione della Libertà per i pareri di costituzionalisti che hanno espresso perplessità sul provvedimento. Il gruppo di Alleanza Popolare lascia libertà di voto ai suoi senatori, mentre Angelino Alfano già pensa a modifica alla Camera. E c'è anche la questione delle coperture. Il presidente della Commissione Bilancio, Giorgio Tonini, ammette l'errore nell'esaminare il testo e ha illustrato un possibile emendamento correttivo. Chiede però altro tempo per consentire alla ragioneria di fare la sua relazione sulla modifica. Cosa è successo? La norma errata parlava di copertura di 20 milioni per il triennio, ora invece verrà indicata l'esatta ripartizione della somma anno per anno. A te, Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Una notizia di poco fa: è morto questa mattina all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era stato ricoverato dopo 2 mesi di sciopero della fame, Salvatore Meloni, l'indipendentista sardo di 74 anni che stava scontando alcune condanne per reati fiscali dal 28 aprile scorso, prima a Oristano e poi a Cagliari. Quindi morto dopo 2 mesi di sciopero della fame. 2 settimane fa la sua avvocata aveva presentato la richiesta di arresti domiciliari. Aveva dichiarato, nel momento nel quale era stato arrestato, aveva parlato di condanne ingiuste frutto di una persecuzione giudiziaria scatenata nei suoi confronti nel 2008 all'indomani della proclamazione della Repubblica Indipendente di Malu Entu. Per impedirmi, aveva detto, di continuare a lottare per l'indipendenza di tutta la Sardegna, e appunto è morto in ospedale. Camera ardente a Roma per Paolo Villaggio. Alessandra Schepisi è là. Alessandra, buongiorno. Ci siamo? Alessandra? Sì. Ci sei? Sì, eccomi. Eccoci. Sono per... qui in Campidoglio. Sì, sì, sì. Vai, raccontaci che cosa succede. Sì, qui... qui c'è la camera ardente di Paolo Villaggio, che è stata aperta alle 9.30 e da questa mattina sta continuando il via vai delle persone che sono venute qui a rendere omaggio al grande artista, cittadine, personalità del mondo dello spettacolo, della cultura. Lo vogliamo ricordare come un amico, hanno detto molti loro fan. Sarebbe felicissimo dell'addio in Campidoglio, soprattutto della presenza di tutte queste persone, ha detto il figlio Pier Francesco, raccontando che il padre diceva sempre che la vera sfortuna è morire durante i mondiali, perché non ti si fila nessuno. Il figlio ha anche rivelato che l'attore amava molto i 5 Stelle, infatti tra i primi a rendere omaggio proprio Beppe Grillo e Davide Casaleggio, passati da un'altra entrata per evitare cronisti e cameraman, e poi anche il ministro dei beni culturali Franceschini, della difesa Pinotti, e tra le personalità del mondo dello spettacolo Neri, Marco Re, Rico Montesano, Lino Banfi. Allora sentiamo quest'ultimo. Era da dire pagliaccio italiano. Beh, pagliacci, siamo tutti dei cialtroni pagliacci. Però la scena è stata, è stato un bel maestro di noi pagliacci. E la bara di Villaggio è adagiata su un tappeto rosso con un cuscino di rose bianche della famiglia, intorno ci sono tanti mazzi di fiori colorati, anche la corona della Sampdoria, l'immancabile nuvoletta di Fantozzi portata da un cittadino con la scritta lassù non pioverà più, e poi questa alle 18.30 ci sarà una cerimonia laica al Teatro Ettore Scola della Casa del Cinema con familiari e amici, e fino alle 21 sempre alla Casa del Cinema verrà proiettato il film Fantozzi di Luciano Salce. Da Roma è tutto. Grazie dunque Alessandra Schepisi per questo racconto. Beh, già ci accennava appunto alle passioni di Paolo Villaggio per il calcio, e al calcio che pensiamo adesso, e del calcio che parliamo. Si gioca in questo momento, insomma, tra due contratti, uno decisamente più importante dell'altro, insomma, quello di Messi appena firmato, Carlo Genta, e quello di Gigio Donnarumma, che alla fine smetteremo di parlarne di questo Donnarumma. Ma io spero il più presto possibile, anche perché non ne può più neanche la gente, non ne possono più neanche gli ascoltatori, i telespettatori, i lettori, eccetera. Comunque, dal funerale di un maestro, di un grande artista come Paolo Villaggio, a un'epoca di matrimoni e fidanzamenti. Matrimonio è quello di Messi, quello vero che ha celebrato ora in viaggio di nozze. Al ritorno, 30 anni, ricordiamo, Leo Messi, al ritorno lo aspetta questo contratto praticamente a vita con il Barcellona, perché si chiuderà nel 2021, e quindi praticamente contratto a vita per il Barcellona, un clausola accessoria che si dice 300 milioni di euro, ma tanto via da lì non andrà mai. Fidanzamento invece quello di Gigio Donnarumma, che adesso è a Ibiza, poi torna, non ha ancora firmato, si fidanzerà quantomeno con il Milan per una bella cifretta che conosciamo tutti, insomma, quasi inutile ribadirlo. E poi questa rinuncia della maturità, ma insomma si è detto e scritto di tutto su questo. Ma guarda, si è detto e scritto un sacco di demagogia, a mio parere. Io continuo a pensare, ma poi ne parliamo in tutti i convocati, che i calciatori non devono essere esempio per nessuno, non devono essere esempio per i nostri ragazzini, quindi l'esempio glielo dobbiamo dare noi, dobbiamo spiegargli cosa succede. Ci dicono di studiare per trovare un lavoro, e lui un lavoro ce l'ha già ben retribuito. Grazie dunque a Carlo anche per il tuo commento. Sarà una discreta provocazione per gli ascoltatori in diretta a partire dalle 14 con tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Il nostro giro per l'Italia ci porterà, come già si diceva, innanzitutto sui due confini, quello con l'Austria e quello con la Francia, per parlare di migranti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre il 349-238-6666 per sms e whatsapp, e la pagina Facebook di Radio 24 dalla quale andiamo in diretta video, e se volete potete commentare anche, anche quei commenti, li leggiamo. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di immigrazione, tra un attimo ci torneremo, del Monte dei Paschi che ha presentato il nuovo piano, dei dati sulle morti sul lavoro che sono state 618, un nuovo minimo storico, della tensione sulla Corea del Nord e, come avete sentito, anche di calcio e sì, anche di Donnarumma. Lo dico all'ascoltatore che dice, con tutti i problemi che ci sono in Italia, parlare di Donnarumma è imbarazzante. Parliamo anche di quello, parliamo di tanti problemi, tra cui appunto quello dell'immigrazione. Ed è da qua che iniziamo con il nostro giro per l'Italia. Andremo sui due confini, andremo innanzitutto al Brennero, dove c'è la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te Simone e ai nostri ascoltatori. E poi al confine con la Francia, a Ventimiglia, in linea con noi il sindaco Enrico Ioculano, col quale io mi scuso perché gli avevo detto: guardi, la prossima volta, sindaco, parliamo delle bellezze del litorale ligure, mentre invece purtroppo la vostra collocazione geografica fa sì che quando parliamo con lei parliamo sempre di quello. Sindaco, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, me la sono segnata però. Sì, prometto che prima o poi lo facciamo. Facciamo così, entro l'anno lo facciamo. Allora, Raffaella Calandra al Brennero. Innanzitutto, ieri i nostri ascoltatori lo sanno, abbiamo sentito il presidente della provincia di Bolzano, Pacer, che ha detto: guardate che è una mossa fondamentalmente elettorale quella austriaca di minacciare di far arrivare l'esercito, di mandare i blindati, perché si vota in autunno, c'è grande enfasi mediatica sulla questione dei migranti in questo momento, anche sulla scorta di quello che chiede l'Italia, e dice insomma, e quindi non ci sono grandi problemi là sul confine. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato la nostra inviata Raffaella Calandra, che così ci può dire veramente che cosa succede a il confine con l'Austria. Raffaella, vai. Simone, sì, e questo era stato abbastanza evidente da subito, anche perché sembrava un déjà vu di quanto già successo un anno e mezzo fa, quando, come i nostri ascoltatori ricorderanno, l'Austria aveva più o meno fatto la stessa cosa minacciando la costruzione di un muro mai avvenuta, anche in quel caso per ragioni elettorali. Ed infatti ora si ferma di fatto dietro il cancello di una caserma, l'ultima provocazione di Vienna, si ferma infatti dietro il cancello di Krannebitten alle porte di Innsbruck, cioè a circa 30 chilometri da qui, dove andrò tra poco, dove restano parcheggiati i 4 blindati annunciati dall'Austria in preparazione di un'eventuale nuova crisi migrante, che però tra queste montagne ora non esiste affatto. Ora infatti a passare per il confine restano come sempre camion, turisti, gruppi di ciclisti o podisti e molti giornalisti, va detto anche questo, ma di sicuro oggi non ci sono né migranti né tantomeno carri armati. Si tratta di farsi trovare pronti, a voluto chiarire il ministro dell'interno austriaco, che secondo la stampa tedesca domani dovrebbe essere a Roma. Di sicuro alla Farnesina sono già arrivate oggi invece le spiegazioni dell'ambasciatore austriaco a Roma, spiegazioni pretese dal Ministero degli Esteri, che non ha nascosto il disappunto per questa nuova prova di forza sventolata dall'Austria. Con la costruzione si tratta cioè di piani di pianificazione e di preparativi di emergenza, ha ribadito l'ambasciatore Pollitzer appunto in risposta alle richieste italiane. E oltre a quello che vedo in questo istante, una totale tranquillità, sono anche i numeri a confermare l'assenza di una emergenza, perché negli ultimi 6 mesi da questo confine sono stati circa 3.450 i transiti illegali di migranti, cioè molti meno rispetto agli 11.800 dell'anno scorso. E poi va detto che la maggior parte dei casi sono avvenuti con controlli alla ferrovia, e quindi da parte soprattutto di agenti italiani che controllano eventuali migranti irregolari e quindi li fermano. Di sicuro c'è polizia o un'ottantina anche i poliziotti austriaci che da tempo però hanno intensificato i controlli qui, come ci sono controlli intensificati anche sul confine italiano. Insomma, certo. Per ora, come già appunto si capiva ieri, si tratta di un'operazione soprattutto mediatica, ma domani saremo a vedere che cosa il ministro dell'interno, se davvero andrà a Roma il ministro dell'interno austriaco, appunto vorrà dire e annunciare. Simone. Allora, grazie dunque intanto alla nostra Raffaella Calandra. Qua un ascoltatore scrive: il governo austriaco che è socialista e ne avevate parlato bene, adesso vi piace, e l'europeista Macron, del quale avete scritto cose grandiose, vi piace ancora. Guardate, qua non abbiamo scritto cose grandiose di nulla, di certo ci occupiamo in parte anche di Macron adesso, come si diceva. Siamo con Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia. Come vanno le cose da voi? Ma la situazione è stazionaria, poi c'è l'attenzione mediatica, è sempre la stessa, ma ripeto, continuiamo a vivere una situazione che ci portiamo avanti ormai da diverso tempo. E per entrare nel tema, l'atteggiamento dei cugini francesi resta lo stesso, non abbiamo visto variazioni da Hollande a Macron. non avete visto variazioni. La vicenda poi l'avevamo raccontata anche nei giorni scorsi, non con lei sindaco, dei migranti che stazionavano in quella specie di accampamento sul torrente Roia, che andava ripulito, ed è un'operazione che voi avete fatto nel momento nel quale siete andati là per ripulire, la sera prima sostanzialmente sono scappati, hanno tentato di passare il confine francese, c'è stata una vera e propria caccia all'uomo e 200 sono stati rispediti in Italia. Sospettate, sindaco, ci sia ancora qualcuno in giro per i boschi, per così dire? Ma io questo non lo penso, insomma, resta sempre il fatto che buona parte di questi ragazzi vengono strumentalizzati da, insomma, persone che si aggirano lì in zona, anche perché, capisce bene, questo è intuitivo ed è logico, è molto più semplice passare alla spicciolata che non organizzare la comitiva di 200 persone, come puntualmente, certo, da ormai diverso tempo. Si riferisce quando parla di persone strumentalizzano, si riferisce alle associazioni cosiddette No Borders, cioè i volontari che vanno là, come dire, in supporto dei migranti. Sì, questo è evidente. E le dico, non è la prima occasione. Si ricorda l'estate scorsa, avendo occupato per qualche ora nuovamente l'area di frontiera, questi ragazzi, uno che arriva dal sud non sa come si passa dal fiume Roia alla frontiera, come ci si arriva, quindi qualcuno ovviamente li porta, li hanno spinti a fare questa azione, questo blitz, hanno attraversato la frontiera, dopo 45 minuti erano stati riconsegnati alle autorità italiane, quindi evidentemente c'è qualcuno che li consiglia, e anche male. La ringrazio intanto, grazie al sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, con la promessa appunto già detta, e la ripeto, che a un certo punto verremo a parlare dei litorali. In realtà noi rimaniamo in zona e rimaniamo a parlare di litorali, cambiando decisamente argomento, perché siamo in linea col sindaco di Alassio, Enzo Canepa. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, lei ha lanciato l'idea insieme al suo collega di Laigueglia di fare delle spiagge a numero chiuso, ho capito bene? Sì, il problema lo verifichiamo lo troviamo sulle spiagge libere. Le spiagge libere hanno una limitata consistenza sul nostro litorale. Noi non siamo l'Emilia Romagna, il litorale ligure è molto più ristretto contenuto, soggetto ad erosione per via delle mareggiate, e quindi abbiamo questo problema grosso, per cui non possiamo permetterci di consentire un accesso incondizionato all'arenile, dove poi andiamo ad avere problemi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica. Noi abbiamo fatto questa domanda agli uffici della regione, ripeto ancora per l'ennesima volta, non abbiamo mai coinvolto la politica, siamo sempre andati direttamente agli uffici, perché è la competenza del demanio e della competenza regionale, e ci hanno risposto che non era da considerare questa nostra richiesta. Allora ho presentato personalmente questa richiesta in consiglio del Consiglio di Sicurezza in prefettura, dove ho manifestato proprio le problematiche di questo caso, perché quando su un fazzoletto di spiaggia si trovano centinaia di persone che mangiano, bevono e fanno di tutto, si portano ettolitri di birra, consumano ghiacciata, hanno le macchine per il ghiaccio, producono alimenti sul posto, tutto nella maniera più illegale possibile. Cosa vuol dire producono alimenti sul posto, sindaco? Cucinano. Ah, cucinano proprio? Cioè, ma si portano i barbecue? Sì, sì, quello lo vendono, l'ho visto io, 10 euro. L'ho visto io, 10. E capisce che diventa, beh, sì, diventa una... Beh sì. È discretamente problematico. Mi dice una cosa, sindaco, che vorrei capire. Dato che di questo tema ci siamo occupati parecchio qua a Radio 24, del tema del numero chiuso, non solamente per quanto riguarda i luoghi nei quali si può godere del mare, della natura, ma anche per esempio delle città d'arte, ha notato un incremento di questo fenomeno negli ultimi anni, di quello che è fondamentalmente un turismo mordi e fuggi, cioè arrivo col treno, mi piazzo in spiaggia a tre quarti di giorno, o con la macchina mi spiazzo in spiaggia a tre quarti di giornata e poi me ne vado? C'è stato un incremento di questo fenomeno? No, questo fenomeno di per sé no. L'incremento sono i beach bus che ha fatto sballare il sistema, perché finché noi dobbiamo gestire quelli che arrivano col treno, che arrivano con la loro macchina, che fanno il giornaliero, che arrivano la mattina presto e poi se ne ripartono la sera tardi, siamo in grado di sostenerlo, perché c'è stato un po' di sofferenza nei tratti di spiaggia libera negli anni passati, però sì, è sempre stato contenuto, il fenomeno è sempre stato risolvibile. Nel momento in cui ci sono queste agenzie che lavorano e portano queste decine di bus turistici da 50 posti ciascuno e arrivano sul nostro litorale, fanno sballare il sistema, perché coloro che dovrebbero avere il diritto anche loro di poter frequentare la spiaggia vengono mandati via da questi, perché gli piantano un gazebo sulla testa e chiaramente questi sono, per evitare disagi, sono costretti ad andarsene. Qua dicono, sindaco, qua dicono, ma perché invece non far girare qualche poliziotto in più, ci scrive qualche ascoltatore. Ma l'abbiamo fatto, però il problema è che noi abbiamo anche una riduzione delle forze dell'ordine. Il problema è questo, cioè, lei pensi, noi abbiamo una polizia municipale di 16 elementi su un organico di 28. Abbiamo la riduzione sul nostro territorio, fortunatamente c'è polizia, carabinieri, vigili, polizia municipale, abbiamo la guardia costiera e nel paese di fianco abbiamo la guardia di finanza che viene quotidianamente sul nostro territorio. Però le forze dell'ordine sono limitate. Noi siamo 11.000 abitanti, arriviamo a 80-90.000 d'estate. E quindi lei capisce che sì, poi la problematica ci sono, certo, la gestione da controllare, la gestione è difficile. Non dubito che torneremo a parlarne. Intanto la ringrazio, grazie a Enzo Canepa, sindaco di Alassio. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi l'ultima piccola storia triste di giornata: i bambini multati con 150 euro a testa perché giocavano a pallone nel parchetto. Sono arrivati i vigili urbani, hanno elevato contravvenzione. Che tristezza. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Migranti verso la creazione di nuovi hotspot, domani inizia il vertice di Tallinn, attesa per l'intervento di Minniti in Parlamento. La vicenda del piccolo Charlie, Boris Johnson risponde ad Alfano, è impossibile portarlo in Italia, è impossibile farlo arrivare al bambin Gesù. Monte dei Paschi arriva il piano, 5.500 esuberi in 5 anni, taglio di 600 filiali. Nel 2016 un nuovo minimo per le morti sul lavoro, sono state 618, di cui la metà fuori dall'azienda, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, c'è la legge, certo, ci sono anche i cartelli coi divieti che dicono che là a pallone non ci si può giocare, per carità, però questa storia che arriva da Malo, provincia di Vicenza, siamo in linea col sindaco Paola Lain, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti i vicentini. Che è un po' al centro dell'attenzione in queste ore, insomma, immagino, certo. E quindi la ringraziamo di aver accettato l'invito. Questa storia della multa ai bambini da 150 euro ciascuno perché giocavano a pallone nel parchetto, Dio, è così triste, sindaco. Allora dobbiamo mettere in fila tutte le cose prima di dare un giudizio. Allora c'è un regolamento comunale, come ha detto lei, sì, approvato da un consiglio comunale ancora nel 2009. Del resto un regolamento come il nostro è presso un po' tutte le città, Padova, Verona, Vicenza, sì, che ottiene, non è che sia una novità. Sì. E prevede il divieto di giocare a pallone nei parchi. Lo scopo non è certo burocratico, ma è quello di tutelare l'incolumità delle persone. Nei parchi, sappiamo, ci sono anche mamme con neonati in carrozzina, bambini piccolissimi, sì, e se venissero colpiti al capo da una pallonata tirata da un bambino un po' più grande, potrebbero avere conseguenze molto gravi, anche lesioni cerebrali. E quindi io dico, non so se questo è abbastanza chiaro, è una questione di educazione civica e di tutela della sicurezza pubblica. Quindi i vigili, la polizia è intervenuta a seguito di più segnalazioni e il loro modo di operare è stato quello prima di avvisare i genitori su quelli che erano i comportamenti vietati all'interno del parco. Cioè sono andati prima là e hanno detto ai genitori fateli smettere. Anche perché poi, che ci sono i cartelli che prevedono il divieto di giocare perché questo è un parco. A seguito di ulteriore segnalazione, sono usciti, hanno trovato nuovamente questa attività vietata e non hanno potuto naturalmente chiudere gli occhi, no? E sono stati costretti a redare 4 verbali ai genitori, sì, di questi bambini, tra cui, sì, c'è anche il nipote del vice sindaco. Tra l'altro il nipote è il vice sindaco. Come, no? Come dire che non si guarda in faccia a nessuno, tanto per dire, no? Ecco, quello che però preoccupa di questa enfatizzazione della storia è che si rischia di far passare un brutto messaggio sull'attività dei vigili ai bambini, perché è giusto invece insegnare, sì, a loro, che sono la nuova generazione, sì, che è corretto rispettare le leggi e i regolamenti, perché è auspicabile che crescano con i migliori valori. Quindi hanno fatto bene a darle multe sostanzialmente i vigili, dice lei. Allora, diciamo, non ci si può lamentare, non si può dire che è un'ingiustizia. Ma i bambini ce l'hanno un posto, ma ce l'hanno, questi erano bambini tra i 5, questi bambini erano bambini tra i 5 e 8 anni, ce l'hanno un posto dove andare a giocare a pallone a Malo, appunto, oppure no? Appunto, ieri mattina mi sono recata subito sul posto per capire un attimo qual era la situazione di quel parco, e fin da subito ho detto, beh, si potrebbe benissimo delimitare una parte del parco ad area campetto da calcio, no? Inserendo, installando una rete di altezza appropriata, perché sì, tengo a precisare che in quel parco c'è una staccionata alta, sì, neanche un metro, ci sono profili di cemento dove il bambino si inciampa, si fa pure male, infatti l'ho fatto osservare i genitori che hanno detto è vero. Sì, sì, detto, per carità, però vabbè, insomma, sì, no, però non si può giocare a pallone. Sì, però non possiamo mettere in sicurezza tutto. Guardi, lo dico da padre di 3 figli, non è che possiamo mettere in sicurezza tutto, insomma. Prima sì, però non possiamo mettere in sicurezza tutto, cioè dirò, tecnicamente impossibile. Guardi, nel senso, i bambini che giocano, prima o poi in qualche modo si faranno male, magari non gravemente. Magari una sbucciatura, una capocciata da qualche parte, però è inevitabile, non è che possiamo proteggerli da tutto, no? Come potrebbe succedere anche di peggio, i genitori mi hanno detto, i genitori sanzionati mi hanno detto, guarda, noi vogliamo pagare la multa al 100%, perché abbiamo detto, guardate, potete ai sensi del codice anche chiedere la riduzione facendo delle osservazioni. No, ha detto, noi la paghiamo al 100% perché è giusto, però quella multa chiediamo venga impiegata, indirizzata per installare una rete di protezione in maniera da creare un'area di campo da calcio, campetto, piccola, detto, mi scusi, in maniera che quello che voglio finire? Sì, ho capito, però ho capito, sì, lei può finire, però il concetto mi è chiaro, il concetto mi è chiaro. Sì, questo l'ho capito, l'abbiamo detto. Uh-huh. Quello che le ho chiesto io prima è un'altra cosa, ma ci sono altre aree dove i bambini possono giocare a pallone che non sia quel parchetto a Malo, oppure no? Non esistono, cioè ce ne sono 10 di aree, però sono un po' più lontane, no? A meno di un chilometro, ma 500 metri forse, sono un po', tra 500 metri e un chilometro ce n'è un altro, proprio un campo da calcio con le reti corrette, però dai, la comodità di averli lì, sì, io posso anche comprenderla, quindi viste le condizioni veniamo incontro ai cittadini e cerchiamo piuttosto, vabbè, di creare un'area nella zona, un'area apposita. Perfetto, la ringrazio, devo veramente chiudere, grazie al sindaco di Malo Paola Lain. Voglio chiarire all'ascoltatore che lo scrive che no, io non sono almeno io non sono il tipo che è il primo che fa causa al comune se mio figlio si fa male. Se mio figlio si fa male sono fatti suoi, e insomma, a meno che non sia, no, qualcosa di palesemente sbagliato, però se cammina su un muretto, casca e si fa male, non posso dar la colpa al comune, e di questo più o meno parlavamo. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.